Grazie della presentazione, grazie dell'invito e grazie di tutte le sollecitazioni che questa serata ha messo in moto questa sera. Parto da una precisazione su ciò che ha detto Paolo. Diciamo che ho studiato urbanistica, ma poi ho scelto di non fare l'urbanista, nel senso che l'urbanista è proprio una professione che se interpretata come è stata interpretata dal dopoguerra ad oggi, decide come le persone devono vivere. E quando mi sono trovata di fronte al fatto di scegliere se fare o non fare questa professione, di fatto io ho scelto di non scegliere per altri come le persone dovevano vivere. Ma penso che siano le persone stesse che debbano riprendersi gli spazi, riprendersi la progettualità sui luoghi in cui vivono. E questo tema degli spazi, questo tema dell'urbanistica, di questo ritorno alla terra che in qualche modo emerge viene raccontato attraverso questo evento della terra trema. Ma è stato raccontato soprattutto dalle testimonianze di questa sera, secondo me fa riflettere moltissimo rispetto alla situazione in cui siamo. Cioè, mi sembra, senza appunto vorrei condividere delle riflessioni che ci facciamo come Folletto e come Terra Trema e che mi vengono anche qui questa sera. Per cui sono riflessioni da condividere, no? Cioè non ho assolutamente la pretesa di fare una sintesi, però quello che emerge in qualche modo è che ci sono sempre delle piccole crisi alla base di processi nuovi che si posizionano un po' al di fuori dei sistemi. E adesso siamo dentro una grande crisi che ci fa stare un po' tutti insieme dentro questa crisi. Però di fatto, non so, l'esperienza di Eva, ma anche l'esperienza di Nives, ci sono dei momenti di crisi, di rottura, dove le persone in qualche modo prendono coscienza delle potenzialità e delle possibilità che si possono sviluppare. Adesso si parla di crisi economica. Di una crisi immobiliare che in qualche modo invita le persone a ritornare alla terra, fa tornare di moda l'orticoltura, il rapporto con la terra, eccetera. Io non penso che siamo collocati in una dimensione o legata alla moda o legata a qualcosa di eversivo uguale pericoloso. Cioè, le persone che in questo momento si stanno riprendendo il rapporto con la terra sono persone che stanno in qualche modo tentando di rimettere in discussione un modello in crisi, ma stanno tentando di sperimentarlo. Cioè, tutti questi piccoli progetti, tutte queste piccole sperimentazioni sono potenti perché stanno rimettendo in gioco un sistema che è complesso, che non è fatto solo di uso del suolo. Non è che stiamo discutendo solo di che destinazione d'uso deve avere il suolo. È più bello che sia agricolo perché ormai il mercato immobiliare è andato in crisi e non rende più. Cioè, qua ci sono in gioco mille, molteplici dimensioni che sono dimensioni vitali, non sono dimensioni che riguardano appunto delle mode futili. Ma sono questioni che riguardano la vita e la morte delle persone, che riguardano il benessere, che riguardano il cibo, la terra, l'acqua, le relazioni. Ed è secondo me intorno al tema delle relazioni che qua si sta ricostruendo il sistema. C'è un sistema che ha abbattuto le relazioni tra gli esseri umani, tra gli individui, ha abbattuto la relazione tra l'uomo e la terra. Tutti questi progetti mi sembra che abbiano dentro un germe diverso. C'è un germe che dice come vogliamo stare insieme, qual è il modo con cui vogliamo vivere, che tipo di comunità, di società vogliamo essere. E queste riflessioni si scatenano a partire da terremoti, purtroppo, voluti o non voluti dall'uomo. Anche la TAV è un terremoto voluto dall'uomo. Ed è a partire dalla TAV che nascono delle comunità che resistono. Quando si dice teniamo la posizione, non lo vedo come una posizione statica. Qui siamo e qui vogliamo rimanere. Teniamo la posizione perché ci siamo aperti degli spazi dentro la crisi, all'interno dei quali stiamo provando a sperimentare delle pratiche sociali diverse. E il sistema ci sta facendo cadere o da una parte o dall'altra. La nostra posizione è quella di tenere la posizione per continuare a sperimentare le nostre pratiche. Il sistema, che in qualche modo non vuole rimettere in discussione il modello di sviluppo, invece ci invita a non tenerci questi spazi. Perché? Perché i professionisti della politica, i professionisti del lavoro, i professionisti dell'agricoltura ci dicono come dobbiamo coltivare, ci dicono come dobbiamo vivere. E queste pratiche sono eversive, sono importanti, contengono dei germi importanti per il nostro futuro, perché invece ci sono persone che si stanno riprendendo saperi e conoscenze, non li stanno più delegando a qualcun altro e non vogliono più delegare il governo dei propri territori a qualcun altro, ma se lo vogliono prendere il governo del proprio territorio. E questo secondo me sono piccole progettualità, ma sono progettualità potenti che cambiano la vita delle persone che le vivono, per cui grandi o piccole che siano, sono fondamentali, vitali per le persone che riescono a sperimentarle. E allora, per tornare a tengo la posizione, ma perché non voglio farmi condizionare da delle cose che mi fanno tornare indietro, voglio farmi condizionare da esperienze come queste che mi permettono di guardare avanti in modo positivo.